Stefania, io capisco la tua riflessione, che non è sbagliata in linea di principio. Il problema è che stiamo andando verso una progressiva deresponsabilizzazione a livello decisionale umano e un progressivo slittamento di decisioni personali umane, quindi fondate sulla responsabilità del medico come medico che ha giurato, che si suppone abbia giurato sul giuramento di Ippocrate, lo si sposta tutto su linee guida, protocolli, eccetera, eccetera. E è evidente che l'intento è appunto avere una società centralizzata dove gli algoritmi sostituiscono le decisioni umane locali. È sempre più evidente questo. E tutte queste linee guida a cascata, questo gioco dell'oca, questo continuo sottolineare come i parametri sanitari decidono tutto. È un continuo sottolineare che i parametri medici decidono tutto, quindi contagiosità, esito di un tampone, e non si va a vedere qual è l'impatto reale sulla fascia anagrafica in questione. Per cui è assolutamente ridicolo che una malattia a decorso benigno nella popolazione pediatrica scateni questo inferno. È ridicolo perché nel passato la storia della medicina e la storia della cultura e dell'istruzione italiana mai ha visto una malattia a decorso benigno mettere sotto scacco e ricattare socialmente e a livello occupazionale e a livello anche psicologico milioni di persone. Non è mai accaduto nella storia. Siamo veramente prigionieri di un incubo, di una psicosi collettiva, ove gli addetti ai lavori sono essi stessi prigionieri. Lo dimostra il fatto che relazioni medico-scientifiche, relazioni giuridiche spedite alle massime autorità italiane, comprese quelle sanitarie, non trovano attenzione, non trovano risposta. Questa condotta omissiva dei vertici dimostra che si è prigionieri di un dialogo tra sordi. Ma siccome i sordi non siamo noi, perché noi esercitiamo dei diritti sanciti costituzionalmente e poniamo dubbi legittimi, interrogativi legittimi, e a questi dubbi legittimi e interrogativi legittimi non si ha risposta, tranne l'unica grande presa di posizione corretta e onesta da parte del capo della Protezione Civile, che con quella nota protocollata firmata di suo pugno, dove ha fatto degli estratti da una delle istanze di Azione Civica, ha dimostrato che persone consapevoli dei loro doveri e attente alle rivendicazioni di una cittadinanza vigile ci sono anche ai massimi livelli istituzionali. Ma purtroppo un singolo da solo non può cambiare una sensibilità comune ad alti vertici. Purtroppo il capo della Protezione Civile è rimasto isolato nella sua azione, che comunque ha un suo valore. Non si capisce perché il dicastero dell'istruzione non voglia rispondere ai cittadini, è suo obbligo farlo. Ci sono delle precise relazioni tecniche allegate, spedite, e non solo il Ministero dell'Istruzione, perché ci sono tutta una serie di ministeri coinvolti che hanno ricevuto le istanze di Azione Civica nazionale per conoscenza e competenza. Ma al di là dell'azione di istanza, è evidente che quando un presidente di Corte Costituzionale esprime una sorta di monito in una relazione scritta che riepiloga le attività svolte dalla Corte Costituzionale nell'anno 2019, e in questa relazione lo stesso presidente della Corte Costituzionale ricorda che non esiste sospensione delle garanzie costituzionali e che la Carta Costituzionale italiana deve restare ed essere bussola dell'agire del decisore politico, è evidente che c'è una forte preoccupazione. Evidentemente il potere esecutivo e anche il potere legislativo, in un certo senso, non tengono conto del fatto che la Costituzione della Repubblica deve restare bussola e al centro dell'agire di un insieme di vertici. Nel momento in cui una carta costituzionale viene persa di vista, è ovvio che la deriva autoritaria in atto è lapalissiana, è palese. La Carta Costituzionale italiana è uscita dalla vista e dalla considerazione degli organi di potere della pubblica amministrazione. In un certo senso è uscita anche dalla considerazione del Parlamento italiano. E la violazione del principio di legalità sul piano formale, su quello sostanziale, la violazione della riserva di legge, sono discusse da mesi da insigni giuristi italiani. Autorevoli presidenti emeriti della Corte Costituzionale italiana, da ultimo il dottor Mirabelli, hanno espresso notevoli preoccupazioni in merito a quello che sta accadendo a livello giuridico in Italia. Quindi il problema non è solo sanitario, medico-scientifico, è soprattutto emergenziale e democratico. C'è una deriva autoritaria in atto, c'è una carta costituzionale i cui valori, le cui garanzie non sono più al centro del dibattito politico, quindi la dimensione pluralistica declinata in senso costituzionale è assente. Questa cosa è gravissima. Ecco perché mesi fa un insigne giudice emerito della Corte Costituzionale ha parlato di golpe normativo. Siamo alla vigilia o siamo già entrati in uno stato di colpo di stato permanente. È evidente, sotto gli occhi di tutti, questa cosa è gravissima. È gravissima perché i cittadini perdono fiducia nelle istituzioni, soprattutto quando si rivolgono alle istituzioni esercitando un diritto come il principio di sussidiarietà orizzontale. È stato inserito nella Carta Costituzionale, quarto comma dell'articolo 118, con la riforma del titolo quinto, e la riforma del titolo quinto ha comportato anche la modifica dell'articolo 117. Le autorità italiane hanno l'obbligo di rispettare l'ordinamento comunitario. La Carta di Nizza, che sancisce i diritti e le libertà dei cittadini dell'Unione Europea, è vincolante giuridicamente per l'Italia. L'articolo 52 della Carta di Nizza è chiaro e recepisce il principio di proporzionalità del diritto comunitario, che viene continuamente in questi mesi non applicato correttamente. Viene calpestato, e come viene calpestato questo principio? A cascata vengono calpestati i diritti e le libertà sanciti dalla Carta di Nizza, che in parte coincidono con i diritti costituzionali. Ciao a tutti da Luca Scantamburro.